Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Benzina sempre più cara, si va verso un euro e mezzo e i consumatori accusano il governo. 17-23 gennaio, in quella settimana, dice Bossi, dovrà passare il federalismo. Clinicamente morto il giovane rapinatore colpito a Napoli lunedì. Referendum per Mirafiori ci sarà il 14 gennaio. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Proseguono i rialzi dei prezzi dei carburanti con la benzina che sfiora un euro e mezzo e ha superato oggi l'1,48 al litro negli impianti Total Erg e il diesel che è arrivato a toccare nei distributori Shell 1,365 euro al litro. Adusbef e consumatori accusano il governo, l'atteggiamento dell'esecutivo di fronte al caro benzina è scandaloso, dicono le associazioni, perché complice delle stangate a danno di famiglie e delle piccole e medie imprese. Secondo le associazioni nel 2010 c'è stato un aumento per la benzina di 18 centesimi da 1,30 di gennaio a 1,48 al litro di oggi, 22 centesimi l'aumento per il gasolio da 1,14 di gennaio a 1,36 euro al litro oggi. Ora la politica. Tra il 17 e il 23 gennaio il federalismo deve passare in commissione, l'ha detto questa mattina Umberto Bossi. Sentiamo i particolari nel servizio. Portare a casa il federalismo è in tempi stretti, quasi come un mantra. Umberto Bossi ribadisce qual è la priorità della Lega. Questa volta è ancora più tassativo e detta i tempi. Tra il 17 e il 23 gennaio, dice, l'ultimo decreto attuativo dovrà essere approvato. Nello stesso tempo il leader del Carroccio frena sulle elezioni anticipate escludendo che possa esserci un voto a marzo. L'aria dunque sembra essere più distesa all'interno della maggioranza. Ieri Berlusconi aveva rassicurato sulla tenuta dicendosi certo dei numeri per evitare la crisi e smentendo contrasti sia con Bossi che con Tremonti, solo chiacchiere al vento, questo governo e questa maggioranza sono solidi. Un ottimismo condiviso anche da Bossi durante la tradizionale cena degli ossi a Calalzo di Cadore che si è svolta ieri sera con gli uomini del Carroccio e alla quale ha partecipato anche il ministro dell'economia Tremonti. Berlusconi è la garanzia, lui non dice mai balle e ha i numeri, ha detto il leader della Lega, frenando però sull'ipotesi di un'apertura ai centristi di Casini, sarebbe una continuazione della palude romana. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il referendum sull'accordo per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori si terrà venerdì 14 gennaio. I primi operai a votare saranno però quelli del turno notturno che inizia giovedì 13 alle 22. Le votazioni dovrebbero chiudersi dopo 24 ore. A Mirafiori sono occupate circa 5.000 persone. In quella settimana dovrebbero essere tutte al lavoro perché non è prevista cassa integrazione. Nei prossimi giorni la FIOM annuncia la convocazione di assemblee per spiegare perché il sindacato non ha votato l'accordo, non ha firmato l'accordo. Ecco il segretario Maurizio Landini al microfono di Laura Viggiano. No, noi abbiamo assolutamente intenzione di andarle a fare le assemblee. Pensiamo che se ciò non avvenisse per le altre organizzazioni sarebbe un fatto grave nel rapporto con i lavoratori, perché vorrei ricordare che questa pseudo trattativa è stata fatta fabbrica chiusa. L'accordo è stato fatto quando loro non ci sono, i lavoratori il primo giorno davvero che rientrano tutti in fabbrica è il 12 di gennaio. Credo che sarebbe rispettoso nei confronti dei lavoratori spiegargli cosa è stato fatto. Se qualcuno dice che è un buon accordo, sarebbe utile che si assumesse la responsabilità di dire ai lavoratori perché lo considera un buon accordo. Noi, per quello che ci riguarda come FIOM, le assemblee abbiamo assolutamente intenzione di andarla a fare. Siccome le possiamo ancora convocare, noi in ogni caso, prima del voto dei lavoratori, andremo a spiegare perché per noi quell'accordo non è accettabile, perché non intendiamo firmare quell'accordo e discutere assieme a loro come si affronta una situazione del tutto inedita, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciare soli né i nostri iscritti né i lavoratori di Mirafiori. Ci spostiamo in Sicilia. Risponde Picche, l'assessorato al lavoro della regione, alla richiesta di ritirare un bando per oltre 8.000 stagisti pagati 500 euro al mese. Avanti nonostante le critiche, l'assessore al lavoro della regione siciliana Andrea Piraino non intende ritirare il bando per 8.400 stagisti pubblicato l'ultimo giorno del 2010. Il provvedimento a sostegno del quale la regione ha stanziato 6 milioni e mezzo di euro prevede l'assunzione di disoccupati che verranno pagati 500 euro al mese per un anno. Una misura che non contribuisce allo sviluppo, l'ha definita Confindustria Sicilia attraverso le parole del presidente Ivan Lobello, al quale hanno fatto eco sindacati e associazioni concordi nel definire questo provvedimento provvedimento come mezzo capace di creare soltanto un nuovo precariato in una terra che già fa fatica ad assorbire il bacino di precari che si è andato ingrossando negli anni, spesso in coincidenza con periodi elettorali. Ma Peraino non intende fare passi indietro. Le critiche sono strumentali, dice, e il bando non verrà ritirato. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora alla cronaca, un incendio è scoppiato nella notte in una villa di proprietà del giudice brindisino Clementina Forleo, in servizio al Tribunale di Cremona. La casa, che si trova in provincia di Brindisi, è affittata ad un noto imprenditore agricolo di Manduria che, sempre la notte scorsa, ha subito un altro attentato incendiario nella sua azienda. Gli investigatori parlano di attentato perché i due roghi sono stati appiccati quasi contemporaneamente. È morto il giovane rapinatore colpito lunedì a Napoli. È morto clinicamente il giovane rapinatore ferito lunedì sera a Napoli, e quindi alle 8 di questa mattina i sanitari dell'ospedale Loreto Mare di Napoli hanno avviato la procedura di accertamento del decesso per Anthony, il 17enne baby rapinatore rimasto ferito in un conflitto a fuoco nel corso dell'irruzione con un complice 18enne in una tabaccheria del centro del capoluogo partenopeo. Nell'esercizio commerciale si trovava un poliziotto libero dal servizio che è intervenuto sparando durante l'irruzione dei due, del quale la procura sta valutando ora la posizione. È stata infatti aperta un'inchiesta per stabilire se l'agente abbia sparato per difendersi. Intanto il questore Santi Giuffre ha immediatamente difeso l'operato del poliziotto, dicendo che si è trattata di un'azione di polizia pienamente legittima e che quello dell'agente è stato un atto di valore. Ancora sotto shock il negoziante, vittima del raid, che si è detto salvo per miracolo. Sotto le feste a Napoli c'è stato un vero e proprio boom di rapine nelle tabaccherie, creando vero terrore tra i commercianti. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ancora il caso Battisti in primo piano, ecco le ultime novità. È stato César Peluso, presidente del Supremo Tribunale Federale di Brasilia, a disporre la riapertura del fascicolo sul caso Battisti. La decisione è arrivata dopo la richiesta di scarcerazione fatta dai legali dell'ex terrorista e dopo il ricorso presentato per bloccarla dagli avvocati che rappresentano il nostro paese. Sul piano diplomatico proseguono nel frattempo le pressioni sul nuovo governo brasiliano per ottenere l'estradizione di Battisti, negata dall'ex presidente Lula. In un'intervista a Rete Globo, il ministro degli esteri Frattini ha detto che in questo momento nel Parlamento italiano non c'è il clima propizio per una ratifica a gennaio dell'accordo militare fra Italia e Brasile. Non una minaccia, ma qualcosa di simile ad un avvertimento, anche se l'accordo resta comunque valido, ha precisato in un secondo tempo la Farnesina, e lo stesso Frattini al Sole 24 Ore ha assicurato che l'intesa economica con il Brasile non si tocca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma. Fondi bloccati per l'assistenza tecnica ai computer di magistrati e uffici giudiziari. L'allarme è arrivato dall'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che parla di sistema che rischia la paralisi. L'ANM dice che mancano 33 milioni di euro. Luigi Biritteri, capo del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Ministero, spiega al microfono di Jacopo Matano le dimensioni del sistema informatico e quali sono i provvedimenti che prenderà il Ministero per risolvere il problema. È un sistema complesso perché serve circa 60.000 stazioni di lavoro, 5.000 server, 1.800 uffici dislocati in 3.000 edifici su tutto il territorio nazionale. Come mai sono stati bloccati i fondi per l'assistenza? Sono stati bloccati perché in esecuzione del nuovo sistema introdotto dalla finanziaria del 2009 non è possibile proseguire contratti pluriennali se non c'è l'intera copertura per l'annualità in corso. Esiste un rischio di paralisi del sistema? Le previsioni catastrofistiche di blocco dei tribunali, di assenza di servizio, mi sembrano eccessive. Il problema che affrontiamo è un problema di considerevole gravità, ma contiamo di risolverlo nel giro davvero di poco. Come si riattiva il servizio? Il Tesoro dovrebbe fornirci le risorse aggiuntive. Il ministro invece ha dato mandato di trovare le risorse in via d'urgenza per riattivare il servizio attraverso variazioni di bilancio interne al Ministero. E dove prenderete questi fondi? Stiamo facendo i conti, lavoriamo a ritmo serrato oramai da settimane su questo, per cercare di recuperare le risorse da un lato senza dall'altro provocare altri contraccolpi pericolosi nel sistema giudiziario. E questa appunto è la risposta del Ministero. Adesso parliamo della tensione ancora presente in Egitto dopo l'attentato alla chiesa copta di Alessandria, dove sono morte più di 20 persone. Al Cairo vive e studia Daniele Bolazzi, palermitano e dottorando al King's College di Londra. Il tema della mia ricerca sono i diritti umani e le minoranze religiose in Egitto. E quindi questo è un momento particolarmente significativo per la sua ricerca. Come sta reagendo la popolazione non copta a quello che è accaduto? I problemi con la comunità copta qui sono molto sentiti, in particolare ad Alessandria e nell'Alto Egitto, nei villaggi in cui il sentimento di identità nazionale è minore ed è più sentita l'appartenenza alla comunità religiosa, nonostante il governo voglia mostrare che in realtà questi problemi non esistono, che in realtà l'identità nazionale è quella più forte. Le autorità affermano di avere particolarmente rafforzato le misure di sicurezza in città, questo si nota? La realtà è che sin dal 1980 c'è una legge che dà ampi poteri alla polizia, per cui è come se ci fosse sempre uno stato di sicurezza e di allarme in Egitto, per cui non si nota molta differenza adesso. Non abbiamo ricevuto minacce, ma la nostra comunità si sente sotto attacco, così risponde alle nostre domande il vescovo copto in Italia, Monsignor Barnabas El Soriani, al microfono di Paola Nania. Noi copti cerchiamo sempre la pace per tutto il mondo, invece come è diventato adesso, come vedi come è nata, dove sta Natale, dopo il Capodanno, abbiamo veramente una ferita nel cuore questo. Potete sentire il nostro dolore pure, quello che è successo in Egitto, questo Capodanno, diciamo, triste proprio. Avete ricevuto minacce voi copti d'Italia? Non abbiamo ricevuto nessuna minaccia qua, ma invece sul sito del Mujahideen hanno scritto un'altra minaccia nuova per la Chiesa copta, sia in Egitto sia dall'estero. Vuol dire che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Perché lei le immagini, quello che è successo il venerdì sera, la domenica, la presenza dei fedeli in chiesa era stata 10%. Domenica scorsa? Certo. Hanno paura di attentati? È normale, perché vedi, quello che è successo ha fatto paura a tutti. Dicono, guarda, non si sa quale chiesa, dove fanno, che cosa fanno, capito? Non si sa. Questa è un'ideologia islamica per svuotare tutto il Medio Oriente. Il tipo da Iraq erano nel tempo di Saddam un milione cristiano, adesso quanti sono rimasti? 130.000, hanno toccato l'Iraq, adesso Libano, Egitto, una catena che gira intorno da questa faccenda. Per quella che non è che Al-Qaeda, no, io non credo che Al-Qaeda, poi anche se Al-Qaeda ha fatto questa minaccia, ma anche ci sanno alcuni da loro, allora stanno in Egitto, perché quelli che hanno fatto questo non sono stranieri, sono egiziani proprio. Vogliono svuotare l'Oriente dai cristiani. Sono le 13:14 minuti, questa prima parte sta per concludersi. Finiamo con una buona notizia che arriva dai mercati finanziari. Il bond quinquennale da 5 miliardi di euro emesso oggi dall'Unione Europea è stato collocato sul mercato nello spazio di appena un'ora. Lo ha reso noto la Commissione Europea. I fondi raccolti serviranno a finanziare il salvataggio delle banche irlandesi. Bene, ci fermiamo per circa un minuto, la seconda parte tra poco. Seconda parte del giornale radio di Radio 24, questi gli argomenti, le notizie più importanti. Benzina sempre più cara, si va verso un euro e mezzo, i consumatori accusano il governo. Il federalismo, ne parla Bossi questa mattina, e dice nella settimana tra il 17 e il 23 gennaio dovrà passare in commissione l'ultimo decreto sul federalismo. E poi una notizia che arriva da Torino, il referendum per Mirafiori ci sarà il 14 gennaio. Queste le notizie principali, adesso andiamo all'estero, dove in Pakistan, dove centinaia di persone, decine di rappresentanti del governo, tra cui il premier Gilani, hanno partecipato oggi a Lahore al funerale del politico pakistano Salman Taseer, assassinato ieri a Islamabad. Per le celebrazioni era stato disposto un imponente apparato di sicurezza per paura di proteste da parte dei sostenitori del partito al governo, come avvenuto all'indomani dell'uccisione della leader Benazir Bhutto 3 anni fa. Il partito ha anche annunciato 2 settimane di lutto. Paolo Piacenza ha intervistato Elisa Giunchi, docente di storia di istituzioni dei paesi islamici all'Università di Milano, e gli ha chiesto un'analisi dei motivi e le conseguenze di questo omicidio. Sicuramente questo assassino aggrava la situazione di instabilità e di incertezza in cui si trova il paese, soprattutto nell'ultimo decennio, ma direi in verità da almeno un paio di decenni, e l'ennesima prova del contrasto fortissimo che esiste nel paese tra un governo, in particolare il PPP che guida la coalizione di governo al momento, che cerca di presentare la faccia più liberale e progressista dell'Islam sudasiatico, e gruppi estremisti e neotradizionalisti religiosi che, d'accordo con alcune forze politiche presenti in Parlamento, cercano invece di far deviare il paese in direzione opposta. È noto che Salman Taseer aveva difeso Azabibi e altre persone in precedenza accusate sotto le leggi sugli atti blasfemi, e era uno dei pochissimi delle pochissime figure politiche che apertamente si era schierato contro queste leggi e aveva chiesto la loro abrogazione. Infatti questa mattina è arrivata la notizia che un gruppo di religiosi fondamentalisti ha espresso solidarietà con gli assassini del governatore del Punjab e ha chiesto a tutti i musulmani di boicottare i funerali. Sì. Allora, c'è il rischio che si verifichino delle tensioni simili a quelle che si sono verificate, per esempio, quando ci sono stati i funerali della presidente Bhutto? Sì, nel senso che i suoi funerali possono dar vita a scontri più o meno diffusi, ma che probabilmente si limiteranno ad alcune aree del Punjab. Ecco, la cosa preoccupante è che questo gruppo di religiosi, di ulama, quindi figure religiose, è un gruppo che è considerato moderato, il Jamaat-e Ahl al-Sunna, e quindi è un gruppo moderato che ha affermato che chiunque partecipa ai funerali o comunque si dica d'accordo con l'emendamento e l'abrogazione della legge sulla blasfemia è egli stesso colpevole di atti blasfemi, e quindi va ucciso, e va ucciso da chiunque voglia prendere nelle proprie mani la giustizia, così come è accaduto nel caso di Salman Taseer. Ecco, preoccupante, ripeto, il fatto che sia un gruppo considerato moderato, ascoltato dal governo, un gruppo con il quale c'è un certo dialogo in corso, perché è un gruppo che ha criticato alcuni eccessi dei talebani. Quindi uno dei problemi del paese è chiaramente un certo tipo di religiosità che ha potuto diffondersi nei decenni, complici anche vari governi che sono succeduti al potere, gruppi che ritengono di avere la verità, di avere il dovere di imporla agli altri, in una situazione che ormai è esplosiva. Sono iniziate a Cuba le procedure per il licenziamento di quasi 500.000 statali nel corso del 2011. Una misura annunciata 2 settimane fa dal presidente Raúl Castro, che parlando davanti al Parlamento aveva detto che con questo ed altri passi volti ad una svolta nel modello economico ci si gioca la vita della rivoluzione. Secondo la stampa locale, il governo si propone di eliminare definitivamente 146.000 posti di lavoro statali, mentre altri 351.000 funzionari saranno ricollocati come lavoratori non dipendenti. Prosegue l'emergenza nello stato australiano del Queensland, nel nord-est del paese. Oggi l'ondata di piena arriva nella cittadina di Rockhampton, 75.000 abitanti, alla foce del fiume Fitzroy. Le acque hanno già superato il livello di guardia di ben 9 metri ed il picco massimo deve ancora arrivare. Poi toccherà la cittadina di St. George, che si trova a 550 km più a sud. Questa è la cronaca, ma il contesto è ben più grave. Sono ormai 10 giorni che in Australia i fiumi straripano e le acque hanno già invaso 40 centri abitati, sommerso migliaia di ettari di terreno, provocato danni gravi a strade e ferrovie, bloccando le attività produttive. Le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni sono più di 4.000, i temporali e le piogge continuano. Il governo ha varato un piano di emergenza che partirà subito ed è possibile che alcune aree soggette ad inondazioni vengano abbandonate. Si prevede che i costi economici del disastro raggiungeranno i 5 miliardi di dollari australiani, 3,8 miliardi di euro, e che le perdite di introiti causate dalle alluvioni avranno un impatto dello 0,7% sul prodotto nazionale lordo. Ma un altro allarme viene lanciato oggi ed è un allarme che riguarda l'ambiente. Con i fiumi in piena, enormi quantità di detriti e pesticidi e altri inquinanti trasportati dalle acque arriveranno in mare e potrebbero perturbare il delicato ecosistema della Grande Barriera Corallina, la più grande del mondo, un tesoro ecologico e una grande attrazione turistica del paese. Alessandra Scaglioni, Radio 24, Sole 24 Ore. E anche le Filippine sono colpite dalle inondazioni, finora si contano 25 morti, le ultime vittime sono 7 saccheggiatori annegati mentre cercavano di rubare dei tronchi d'albero spingendoli in un fiume straripato. Torniamo in Italia, novità sul caso Claps emergono dalla perizia depositata in procura a Salerno. Una strenua difesa per disarmare il suo assassino. È quanto tentò di fare Elisa Claps prima di essere uccisa nel settembre del 1993 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. A rivelarlo è la perizia di Cristina Cattaneo, messa a disposizione della Procura di Salerno. Elisa Claps ha riportato alcune ferite alla mano destra nel tentativo di afferrare la lama del suo assassino ed evitare di essere colpita. Dell'omicidio della giovane è sospettato Danilo Restivo, detenuto in Inghilterra e nei confronti del quale è stato spiccato un mandato d'arresto europeo dalla Procura di Salerno. Gennaro Grimolizzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Potenza. Uno studio dell'ASL, l'azienda sanitaria locale di Cagliari e Lanusei in Sardegna, ha rivelato come il 65% degli allevatori di pecore attorno al poligono militare di Chirra, sulle coste sudorientali della Sardegna, sia affetto da leucemia e che siano numerosi gli agnelli nati deformi. Giovanni Stinco ha chiesto un commento a questi dati al professore Valerio Gennaro, epidemiologo dei tumori all'Istituto Superiore di Genova. Beh, insomma, come epidemiologo questi dati sono allarmanti. Io spero che, ecco, un'eventuale correzione o, diciamo, approfondimento possa ridimensionarli, perché sarebbe di una gravità incredibile sostanzialmente con questa cosa. Però, avendo fatto dei colleghi che sono appunto molto cauti, ecco, ritengo che sia vero, e quindi sia importante dare subito un contributo, una mano per approfondire, insomma, questa indagine. Secondo lei ci possono essere delle indicazioni che colleghino alla base militare? Beh, diciamo che sì, direi che da un punto di vista esterno non ci sono altri fattori di rischio in qualche modo in quella zona. D'altra parte, essendoci con segreti industriali, segreti militari, è molto difficile approfondire la questione. E dopo la morte per l'influenza H1N1 in Italia non c'è nessun allarme, dicono gli esperti, è necessario il vaccino soltanto per le categorie a rischio. Lo spiega il professor Giovanni Rez, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, lo ha intervistato Antonella Salini. Dei casi gravi e anche letali sono del tutto attesi, era successo anche l'anno scorso. Il rischio che bisogna evitare è quello, da una parte, di allarmare o allarmarsi quando c'è la notizia della morte di una persona che magari aveva già delle malattie croniche in atto e che purtroppo non si è vaccinata, o dall'altro quello invece di sottovalutare il problema. Il problema non va sottovalutato, abbiamo sempre detto che le persone a rischio di complicanze devono essere vaccinate. Quelli che si sarebbero dovuti vaccinare, sì, dovrebbero vaccinare prima possibile, sono naturalmente le persone con malattie croniche, per esempio malattie croniche dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio, ad esempio il diabete, ad esempio bambini, per esempio neurolesi, bambini magari nati prematuri ancora nei primi 2 anni di vita, le donne in gravidanza, se le persone obese o iperobese. Adesso torniamo a parlare di Michael Jackson, perché negli Stati Uniti è iniziato il processo a carico del suo medico. The legendary king of pop, Michael Jackson. È passato più di un anno e mezzo dall'annuncio rotto dalla commozione con cui Jermaine Jackson dava la conferma al mondo della morte del fratello Michael. 19 mesi in cui il procuratore di Los Angeles David Walgren ha raccolto le prove sulle cause del decesso del re del pop in vista dell'udienza preliminare che si è aperta ieri nella città californiana. Primo e unico accusato di omicidio colposo è il medico di Jackson, Conrad Murray. Motivo del decesso sarebbe un'overdose di Propofol, la sostanza abitualmente somministrata da Murray per l'insonnia del cantante. Il medico, secondo il procuratore, avrebbe tentato di nascondere l'anestetico prima dell'arrivo dei paramedici, quando Jackson era già morto, ma Murray, attraverso i suoi legali, si è sempre dichiarato innocente. Il dottor Murray non ha causato la morte di Michael Jackson. I fatti, le circostanze che sembrano essere inusuali, non lo rendono un assassino, dice l'avvocato del medico Ed Chernoff in un'intervista alla CNN. Murray rischia ora una condanna fino a 4 anni di carcere e il ritiro della licenza per l'esercizio della professione medica. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È record in Giappone per il prezzo raggiunto da un tonno rosso venduto a 300.000 euro in occasione della prima asta dell'anno al mercato ittico a Tokyo. L'esemplare, 342 kg, era stato pescato al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido ed è stato acquistato da 2 proprietari di un ristorante di sushi in Giappone e a Hong Kong. Il tonno è costato precisamente 32,49 milioni di yen, ossia 298.000 euro. Si tratta del tonno più costoso della storia del Giappone, dopo il dal record di 20 milioni di yen, 183 mila euro, raggiunto nel 2001. Saluto il gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Senti, questo è un caso unico, il Giappone è un caso a parte o dobbiamo preoccuparci per il prezzo del tonno? No, diciamo che queste cifre non sono mai state raggiunte, come hai detto tu, è il record, però spesso succedono queste aste incredibili al mercato di Tokyo, che ricordiamo è il mercato più grande al mondo di pesce e il più importante, dove il tonno è sicuramente la star. Io una decina di anni fa ho assistito a un'asta selvaggia come questa, dove mi ricordo aveva raggiunto 300 milioni di euro allora, quindi ancora non c'era l'euro, e quindi diciamo che succedono spesso appunto queste aste incredibili con tonni così importanti. Non dimentichiamo che appunto tutto, anche il tonno rosso del Mediterraneo, il più pregiato, finisce in Giappone, finisce in questo mercato di Tokyo. Sono grandi consumatori ed è, diciamo, come ho già detto prima, la star della cucina giapponese, il sushi nasce da questo, quindi non scandalizziamoci, queste cose possono succedere perché da noi anni fa il tartufo aveva raggiunto delle cifre record e così pure altri prodotti in altre parti del mondo. Certo che il tonno è un pesce in via di scomparizione, questo invece deve far pensare, perché se c'è sempre una caccia così al tonno da parte dei giapponesi, sicuramente anche la caccia di frodo è praticata un po' in tutto il mondo, dove si possono pescare tonni e quindi finire sul mercato di Tokyo. Quindi un po' ci dobbiamo preoccupare. Sì, ci dobbiamo preoccupare perché appunto questo pesce sempre di più, specialmente nei nostri mari, nel Mediterraneo, veramente è ormai diventato introvabile, tant'è vero che ci sono ormai delle quote decretate ogni anno per i paesi comunitari, solo che continua la caccia di frodo e diciamo che ci sono anche dei commercianti che tengono il tonno ben stretto in frigorifero e poi lo rimettono sui mercati quando i prezzi salgono. Bene, grazie a Davide Paolini, buon pranzo e anche buon lavoro. Adesso noi chiudiamo questa edizione di GR24 parlando di musica. Che molti ricorderanno e che abbiamo utilizzato per ricordare Jerry Rafferty, morto a 63 anni, era stato ricoverato in ospedale per una grave insufficienza epatica legata ai problemi di alcolismo, autore del brano che abbiamo sentito, che stiamo sentendo, Baker Street, canzone che sicuramente molti di voi ricorderanno. E con questo chiudiamo questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini, che vi auguro una buona giornata. Ringrazio anche in regia Filippo Aureggi. Il giornale radio torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.